tutte le donne, Maria. Tu sei la benedetta, e il frutto del seno tuo è la salvezza per noi. Nella parola hai creduto, tu, o Vergine Santa, sperando e compiendo per noi la promessa di Dio. Amata e presente tu eri già prima del mondo, per essere madre di Dio e di tutti noi. Pienezza di grazia incarnata nel grembo tuo, madre, al saluto dell'angelo che in silenzio annunciò: ti chiamerò sposa, tu pura sposa del Signore. Ave Maria, sei la regina della pace, ti chiamerò madre, tu madre di misericordia. Ti chiamerò cielo, il sole di giustizia in te. Ave Maria, umile serva dell'amore, madre di Dio. La figlia di Sion tu sei, l'arca di una nuova alleanza. Nel tempio tuo figlio hai donato come offerta per noi. La stella del mare tu sei, che veglia sul nostro cammino e accoglie con cuore di madre il grido dei figli suoi. Rivolgi a noi gli occhi tuoi, madre, di misericordia. Per noi peccatori tu prega, dolce dono di Dio. La porta del cielo tu sei per ogni tuo figlio, donato da Cristo nel giorno che al Padre tornò. Ti chiamerò sposa, tu pura sposa del Signore. Ave Maria, sei la regina della pace. Ti chiamerò madre, tu madre di misericordia. Maria, umile serva dell'amore, madre di Dio. Madre di Dio.